Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 11 maggio 2015. Cooperazione, la partnership tra paesi in via di sviluppo funziona anche in agricoltura. La cooperazione internazionale è in ripresa, nonostante gli anni di crisi che abbiamo alle spalle. Merito delle iniziative di partnership orizzontali tra paesi in via di sviluppo, in cui i soggetti europei giocano sempre più spesso un ruolo più limitato, ma più puntuale ed efficace. È il caso anche di alcune iniziative di cooperazione per lo sviluppo delle attività agricole in Africa, che hanno potuto giovarsi delle buone pratiche sperimentate tra paesi emergenti, mentre il partner europeo ha giocato il ruolo di regista e partner tecnologico. Un approccio più rispettoso delle esigenze e dei tempi dei paesi del sud del mondo, ma anche più ricco di sviluppi credibili per le imprese europee. Fin qui la notizia dell'11 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Le partnership orizzontali tra paesi in via di sviluppo si dimostrano spesso più efficaci. Lo si è visto anche nel caso del progetto Eloise, finanziato dall'Unione Europea, di cui è stato capofila il Centro Estero per l'internazionalizzazione del Piemonte. Elena Dall'Amico, coordinatrice del progetto. Nella prima fase del progetto noi abbiamo raccolto le buone pratiche esistenti all'interno del partenariato in tema di questi strumenti per il mercato del lavoro. La Costa d'Avorio, che era il paese diciamo più bisognoso, ha identificato due buone prassi. La prima, quella marocchina, di censimento semestrale sulle imprese in materia di rilevazione dei fabbisogni di reclutamento del personale e anche dei bisogni di formazione del personale. La seconda pratica invece è stata trasferita dal Perù riguardo il censimento effettuato proprio porta a porta sulle famiglie per raccogliere dati socio-economici. Finita questa prima fase si è cercato di trasferire questi metodi nei paesi che avevano individuato le pratiche da trasferire. Ovviamente questo ha implicato tutta una fase di sviluppo più tecnologico che è consistito proprio nel disegno e nello sviluppo di software dedicati, quindi specifici per ciascuna realtà implicata. Lo sviluppo di questi software è avvenuto all'interno di una cooperazione bilaterale che si è svolta tra l'Italia e il singolo paese beneficiario. Noi come soggetto europeo non ci siamo limitati a portare l'esperienza europea in questi paesi, ma abbiamo cercato di conoscere l'esperienza ad esempio del Marocco, del Perù, individuando delle eccellenze che potessero in qualche modo adattarsi alla realtà della Costa d'Avorio, che sicuramente è molto lontana da quella europea. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.